Compro cose compulsivamente per raggiungere il respiro che mi manca, disbrigo frettolosamente faccende, rammendo, strappo il filo, coi denti assottigliando le labbra ignare di un rigido ghigno, ignoro gli squilli del telefono. Assumo un atteggiamento accogliente alle mie quattro stanze, subaffitto gentilmente mani e piedi a qualcun altro o altra dalla mente, spippolo doverosamente il cellulare, rintraccio il telecomando, aggiungo a fine cottura ancora un po' di sale che non sa di niente.